Siamo al telefono con Giovanni Sparano di Barezzi Festival. Grazie Giovanni di essere qui con noi intanto. Salve, salve a tutti. Allora, quest'anno Barezzi ritorna, già anche l'anno scorso era stato nel Teatro Regio di Parma, ma quest'anno un po' in presenza, ecco, con tre giorni pieni di musica. Come sarà questa edizione di Barezzi Festival? Ma sarà un'edizione prima di tutto con il ritorno del pubblico in presenza al 100%, che è una bellissima notizia, naturalmente con tutti con il Green Pass e mascherine, ma soprattutto avremo secondo me una band internazionale come Fun Fountain DC, saremo i primi mi sa in Italia ad esordire con un gruppo del genere, che tra l'altro viene mi sa per la prima volta in Italia. Festival dedicato alla figura di Battiato, perché grazie a lui diciamo esistiamo un po', perché nel 2008 accolse positivamente una nostra mail, rispose e venne gratuitamente alla seconda edizione del festival, ci ospitò a casa sua a Milo e fu veramente molto generoso, ed è stato poi negli anni a seguire un faro per le nostre scelte artistiche, che hanno sempre unito mondi lontanissimi. Il titolo di questa edizione, che prende spunto da un album di Battiato stesso. E avremo gli headliner, che sono i Fontaine DC, Io sono un cane e Carmen Consoli, che omaggeranno il maestro con un brano suo. E poi invece avremo nella parte dei concerti pomeridiani del Barezzi Off dei lavori speciali, tutti dedicati al maestro, come per esempio i Radio Dervish, che interpreteranno i brani spirituali di Battiato, Alessandro Nidi, che fu il direttore d'orchestra di Genesi, che si ebbe proprio a Parma nel 1987, che riprenderà alcuni pezzi di quell'opera e con degli interventi del soprano dell'epoca e del regista Maghezzani, proprio perché questo qui è stato c'era tanto di Parma dentro. E poi avremo Niccolò Carnesi, che farà tutto Caffè della Penne, Guido Maria Grillo Il Vuoto, Filippo Destrieri, che è stato il suo grande tastierista nei primi anni, fine anni 70 inizio anni 80, che presenterà questo spettacolo che prende il nome dalla voce del padrone, ma sarà il padrone della voce, no? Quindi uno spettacolo incentrato soprattutto sul Battiato elettronico degli anni 70. Poi avremo Pino Marino con Patriots e Alessio Bondi, che è un bravissimo talento emergente siciliano, che interpreterà i brani siciliani di Battiato. Come avete capito è una, diciamo, un'edizione ricchissima e piena di contenuti dedicati al maestro. Maestro Battiato, ecco, come funzionerà un po' proprio organizzativamente la parte pomeridiana e dove si tiene? Perché non è proprio nella stessa sala in cui si tiene poi la parte degli headliner, giusto? Esatto, noi iniziamo con il Barezzi Snack, diciamo ora di pranzo, nel bellissimo caffè del teatro, che è sempre dentro al Teatro Regio, quindi appena si entra nel foyer a destra c'è questo caffè, e lì avremo Pino Marino, ecco William Manera, mi ero dimenticato, quest'altro artista siciliano che farà L'era del cinghiale bianco. Poi avremo i concerti delle 16:17 al Ridotto, che è questa sala fantastica che è al primo piano sopra al foyer, di circa 200 posti, dove avremo Guido Maria Grillo, Filippo Destrieri, Alessio Bondi e Niccolò Carnesi. Mentre l'auditorium del Carmine, che è l'auditorium del conservatorio, che si trova a 200 metri dal Teatro Regio, è questo auditorium incredibile che è stato ricavato all'interno di una chiesa gotica per i concerti dei Radio Dervish e di Alessandro Nidi Ensemble alle 19. Prima dei concerti degli headliner alle 21 nella sala grande del Teatro Regio. Perfetto, tra l'altro headliner, siete riusciti a combinare tre headliner che vengono appunto da mondi lontanissimi, che è un po' il titolo anche, no? Perché c'è Carmen Consoli, comunque col suo pop cantautorale italiano, Io sono un cane, che praticamente è musica elettronica, e i Fontaine's DC, che vengono dall'Irlanda e fanno post-punk. Com'è nata la scelta di unire questi appunto mondi lontanissimi musicalmente parlando? Ma allora, noi ogni anno, devo dire, uniamo mondi lontanissimi, tranne un po' l'edizione dell'anno scorso, che è stata incentrata soprattutto sul cantautorato italiano per via della pandemia. Però quest'anno abbiamo voluto dare veramente una base di quella che era, secondo noi, l'arte di Battiato, che spaziava proprio dall'elettronica al cantautorato e al rock, anche punk, no? Se consideriamo alcuni album di Battiato ricadono su questo genere. Un'altra cosa, il Baresi nasce nel 2007, quindi sì. Sono 14, qui, questa è la quindicesima edizione. Sì. Ecco, cos'è cambiato nel tempo dalla prima edizione alla quindicesima? In che modo un po' si è evoluto? Cosa si è trasformato? Cosa vorreste trasformare anche magari nei prossimi anni? Ma allora, il primo sostanziale cambiamento è che quando siamo nati, che era il Caffè dei Marchesi, era un concorso dedicato ai giovani talenti che dovevano di varie estrazioni musicali, quindi già eravamo abbastanza trasversali, dove questi artisti emergenti dovevano reinterpretare brani classici all'interno della propria prova. Subito dopo ci è venuta l'idea di affiancare un festival al concorso e ci venne in mente proprio di contattare Battiato, perché era la figura che in Italia si era confrontato con la musica culta in modo più forte, e quindi scrivemmo questa mail e da lì è partito questo festival, che da subito ha avuto l'impronta che ritroviamo oggi. Quindi abbiamo fatto Philip Glass, Michael Kiwanuka, Benjamin Clement, gli artisti della musica elettronica come Nguinea, Clap, Gold Panda, i cantautori emergenti come Calcutta, dei giornalisti, Levante, che abbiamo ospitato quando ancora non erano, tra virgolette, famosi. Un altro cambiamento è stato l'accentramento su una venue importante come il Teatro Reggio, che diciamo è stata la sintesi di quello che noi andavamo cercando, cioè i teatri d'opera. Avendo io avuto un'esperienza come comparsa ai primi anni del 2000, volevo fortemente e portare un pubblico diverso all'interno di questi luoghi. Il Teatro Reggio è davvero il tempio della lirica, quindi aver portato determinati personaggi di fama internazionale per me è già stata una grande vittoria, diciamo, e vogliamo continuare in questo senso. Benissimo, infatti ci sarà un po' il contrasto tra il teatro lirico e la musica elettronica, sì. Post-punk. Noi l'anno scorso l'abbiamo visto dal nostro divano e già era molto bello vederlo da lì, quest'anno finalmente riusciremo a vederlo dal vivo. Bene, Giovanni Sparano, ricordiamo appunto le date del Baresi Festival, che saranno il 4, il 5 e il 6 novembre al Teatro Reggio di Parma, chiaramente purtroppo ancora, purtroppo o per fortuna, diciamo, muniti di Green Pass. Già una grande conquista. Sì, riuscire a fruire di cultura. Esatto, infatti speriamo di poter continuare e di migliorare sempre. Ti chiedo, per chiudere, tra i tre headliner di questa edizione, quale scegliamo per chiudere l'intervista e per salutarci? Ma sicuramente Fontaine D.C., perché è un gruppo molto atteso, che verrà per la prima volta in Italia, sono acclamati dalla critica e sono già quasi sold out, poche settimane, quindi sicuramente consigliamo fortemente i Fontaine D.C. Perfetto, allora chiudiamo con i Fontaine D.C., grazie mille Giovanni, ci vediamo al Baresi Festival. Grazie. Ciao, grazie mille. Ciao.